Vive di te come l'onda del mare, come il vento nel fiore, come il caldo nel sole. Ride di te un pianeta ormai spento, una foglia nel vento che un uomo non è. Per te un amico sincero, un sogno mai preso, un amore davvero. Vivi così come un giorno speciale, dove il tempo non vale, e se stai bene così. Aspettando un domani migliore, di cercare la mia condizione, rotolandomi giù. Vivo così, sorridendo alla sfortuna, che di notte mette paura, sì, per l'aspetto che ha. Oh no, no, no. Così, ripensando al tempo passato, che non ho mai dimenticato e che mai più tornerà. Ma lui, lui vive di te come l'onda del mare, come il vento nel fiore.